La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Lick it, lick it, rack it, forward jump, back jump, one, two, three. Siamo qui anche oggi e questo è il meno, perché in realtà ci sono cose che tornano tutti gli anni. Almeno io qui sono per la prima volta. Sono Tommaso Labranca, questa è la bella estate, giovedì. Il giovedì sapete che forse c'è sempre un ospite, ci sarà anche oggi, non si sa. Quello che sappiamo è che oggi all'800 24 0024 voglio sapere qual è la notizia diffusa dai TG che voi non sopportate più. Saranno 20 anni ormai, io ormai ho una certa età e quindi posso fare i raffronti col passato. Sarà 20 anni che i TG, appena spunta il primo raggio di sole, cosa fanno? Mandano in onda i soliti servizi. Turisti nella fontana per il troppo caldo, vecchietti disidratati, dimenticati in casa da figli degeneri, vecchietti che invece figli più buoni portano nei centri commerciali e lì li lasciano perché c'è l'aria condizionata. Io non ho l'aria condizionata a casa, quando ho ospiti vengo anche insultato perché non ho l'aria condizionata, ma io so termoregolarmi, mi so regolare la temperatura da solo, non voglio coinvolgere il consumo energetico perché poi ci sono picchi di consumo energetico, ma non solo. A furia di dare informazioni nei TG su consumate più frutta, bevete più acqua, perché alla fine dicono solo questo, ci sono gli aumenti della verdura e della frutta. Leggo una notizia battuta proprio oggi. Pensate, i cocomeri, che poi sono ben diversi dai meloni, sono aumentati del 268%. Sarà colpa dei TG? Non lo so. Ecco perché il titolo della puntata di oggi è Metti una pera a cena. Chiedo scusa per il titolo, l'ho inventato io naturalmente, però è vero, perché vogliono che noi ceniamo soltanto con una pera o con la frutta, perché bisogna mangiare più frutta. Intervistano sempre, c'è proprio questa figura del giornalista estivo, che è diverso dal giornalista invernale, che va dal medico o dal nutrizionista per farsi dire sempre, tutti gli anni, consumate più frutta, bevete più acqua. E vabbè, grazie, non lo sapevamo. Abbiamo quindi un ospite, ma non un ospite qualsiasi. Prima di tutto è una persona completamente diversa da me. Io sono uno che d'estate al massimo si mette le maniche corte. Lui appena c'è il sole, ma si spoglia integralmente. Si chiama Shai Stibelman. Buongiorno Shai. Buongiorno. Ti piace? Fantastico. Ecco, questa è la tua sigletta, questa bella canzone, penso ebraica, antica, come si chiama? Evvero Shalom Aleichem. Ecco, vedi, lui lo sa benissimo, perché Shai viene da Israele, però abita in Italia al momento, studia, lavora adesso in Italia. Sì. Ecco, dici subito una cosa, ma i telegiornali israeliani cosa dicono? Da voi fa caldo sempre, tutto l'anno. Sì. Tutto l'anno quindi dicono mangiate più frutta, bevete più acqua, portate i nonni nel centro commerciale, cosa fanno? Dicono praticamente la stessa cosa come qua. Ma perché, tutto l'anno? No, tutto l'anno no, perché all'inverno fa un po' più fresco. Non come qua, però sì, fa più fresco. Però all'estate fa un caldo veramente serio. Quindi, essendo già abituati a questo calore, non è che ci dicono qualcosa di particolarmente nuovo. Tranne bevete più acqua e risparmiate anche nello stesso tempo. Ah, dicono bevete più acqua, ma risparmiate. Sì. In che modo si può fare? A ciclo continuo? Ma non mi sembra molto tipo astronauti. No, bere la Coca-Cola. Ah, bisogna bere qualcosa che non sia acqua. Ma danno anche notizie molto fondamentali, tipo i cocktail dell'estate, perché c'è sempre il servizio col cocktail dell'estate con l'ombrellino. Sai che non saprei, perché essendo alcolizzato solo da quando sono venuto qua. Comunque allora tu devi imparare a vivere in Italia. Senti un po' come sono i TG italiani. Spesso può creare problemi tutto questo caldo unito all'umidità, soprattutto ad anziani e bambini, a chi soffre magari di cuore o di asma e allergie o problemi respiratori. Siamo stati a vedere che cosa succede al 118 di Milano. Ha molto caldo adesso, ho capito. Va bene, ascolti, assume qualche farmaco, mi dice quale? E ha fatto qualcosa, ha aperto gli occhi. Solitamente in questi casi sono pazienti tendenzialmente anziani, tendenzialmente cardiopatici, che riferiscono un malessere generalizzato. I problemi veri che possono... Alla faccia del malessere generalizzato, ha aperto gli occhi, cioè quello è morto praticamente. Questo, caro Shai, è un tipico servizio da TG estivo italiano. E non sto generalizzando dicendo che so studio aperto piuttosto che il TG2. Tutti i telegiornali italiani da un certo punto in poi impazziscono. Chiediamo quindi lumi a un'esperta, a una giornalista. Abbiamo con noi Marianna Aprile. Marianna? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Marianna Aprile, che lavora per Oggi, il settimanale Oggi. Magari ci sa dire come mai a un certo punto in poi i giornalisti impazziscono e cominciano a dirci le stesse cose che hanno detto l'anno scorso. Vabbè, intanto è un bagno di umiltà da parte nostra, nel senso che magari non si dà per scontato che il lettore che prende in mano il giornale o il telespettatore che accende il TG sia stato lì anche l'anno scorso, insomma, quindi comunque un po' è un punto a nostro favore, cioè a favore della nostra umiltà. Detto questo, la stagionalità credo che sia un male necessario dell'informazione, nel senso i lettori cambiano, si estinguono, ne arrivano degli altri. Non dire si estinguono, perché proprio parliamo di quei vecchietti che poi muoiono disidratati col 118. No, bevete perché fa caldo, non vi estinguete in quel senso, non so, neanche come lettori peraltro. Comunque, il rumore che avete sentito prima mentre parlava Marianna erano le sue unghie mentre si arrampicava sugli specchi per difendere la categoria. Dai, su, diciamo no, che sono, anche... No, ci sono degli argomenti che non si può non trattare, cioè ci sono... Oggi è un giornale di notizie, ma di notizie pensato... un giornale pensato per le famiglie, e a una famiglia è un animale strano, un animale composito, cioè tu non puoi affrontare l'estate senza far vedere la cellulite sulla diva di turno piuttosto che il primo topless della stagione, cioè non puoi non parlare di quello che ti può rovinare cioè guarda, l'altro giorno sfogliavo Repubblica, sì, sono incappata in un articolo che si intitolava I nemici delle vacanze. E chi erano i nemici delle le vacanze? Le meduse, le tracine, i ricci, le zanzare, tutte le cose che ti rovinano la giornata di vacanza. Soprattutto a Cortina d'Ampezzo, poi sono tutti preoccupati per le meduse. Sì, preoccupatissimi, uno non va in vacanza per quello. Ma al di là di questo, cioè io ho iniziato a ridere perché anni fa, io lavoravo per un giornale di salute e ogni anno facevo un pezzo che si intitolava I nemici delle vacanze, che era esattamente come quello che ho trovato su Repubblica. Cioè, questo per dire che un po' è vero che, insomma, che pecchiamo di fantasia, soprattutto nella titolazione, devo dire. Però gli argomenti sono un po' obbligati. Poi sta a noi sforzarci un po' di più per trovare una chiave, un taglio che sia un po' più accattivante di quello dell'anno precedente. E questo è un'altra arma a doppio taglio, perché spesso si dà il là al diffondersi di leggende metropolitane, di stranezze, di strani ma veri, solo per non parlare delle meduse al mare. Cioè, infatti, che poi sono una leggenda anche loro. Però sai, Marianna, ci sono anche persone che vanno oltre la medusa, oltre la fontana, oltre il semplice caldo. Intanto ricordo 800 24 00 24 per raccontarci la notizia che più vi ha stancato, di cui veramente non ne potete più. Oppure, se magari veramente avete bevuto più acqua e mangiato più frutta, avete avuto la pera a cena e vi siete sentiti meglio. Marianna, ascolta questo servizio, sempre su un'emergenza estiva, ma un po' particolare. Durante l'estate è capitato, insomma, tipo un fulmine che, insomma, tipo stile film. Ad avere a che fare con i fulmini circa una persona su tre. Vi sembrano troppe? Ecco qualche numero. In un anno ne cadono circa 1.600.000 in Italia, tra maggio e novembre. Picco ad agosto, 500.000 di media. Bastano avere dell'oro addosso. Falso. L'oro attira, ma non è l'unico. Panchina con asse di legno, manici in ferro sotto un albero. Se arriva un fulmine, come siamo messi? Bene o male? Siamo messi molto male. Un prato, un albero, un traliccio, il mare, soprattutto in barca, in tenda, al campeggio, ecco le situazioni più a rischio fulmine, il luogo più sicuro. Se siamo su una strada e ci prende un temporale con molti fulmini, l'unica cosa è fermare la macchina, spengere tutto e chiudere tutti i finestrini, per cui diciamo che la macchina ci fa da copertura. Da cassa. Se siete per strada, sedetevi, accucciatevi. Allora, se stanno parlando di fulmini killer, non dici che la macchina diventa una cassa, perché sennò uno comincia a fare i suoi gesti apotropaici. Di parola difficilissima. Poi spiegherò la parola a Shai, che è il nostro ospite israeliano. Marianna. No, allora, che fantasia. Io sono sfortunata perché di fulminati ne conosco molti più di uno su tre, quindi sono fuori campione. Detto questo servizio è l'esempio perfetto di alcuni errori che commettiamo noi giornalisti. Noi ci muoviamo tra due poli, che sono quello dell'allarmismo e quello dell'eccessiva rassicurazione. Cioè, se tu compri un qualsiasi giornale di salute per famiglie, cioè ovvio le riviste serie ci sono, sì, e ben vengano, però se tu vedi le rubriche di salute medie sui giornali per famiglie, eccetera, sono tutte molto, cioè non c'è mai la parola morte, non c'è mai la parola malattia. La chiamano comunque, come si dice, te la tirano un po'. Sì, speriamo speriamo di no, ma insomma si va da quel polo lì di eccessiva rassicurazione al polo del servizio che abbiamo appena ascoltato, cioè il fulmine killer, cioè, a sentire questi servizi sembra che se uno esce di casa è destinato a soccombere. Ma anche se resta in casa, perché comunque anche in casa poi il caldo... Se sei abbastanza sfortunato, sì. Marianna, per concludere, dammi una notizia e dei consigli per l'estate, su. No, io la notizia che ancora non ho letto quest'estate, devo dire, e che mi manca un po', sì, anche perché quest'anno sarebbe vera probabilmente, è la morte della Costa Smeralda. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo sfogliato giornali che verso luglio, i primi di agosto, decretavano la fine della Costa Smeralda come meta VIP. Non so se ci avete mai fatto caso. Quest'anno, sì, che sì, veramente un po'... Sono tutti a Formentera quest'anno. Sono tutti a Formentera, che è un po' l'evoluzione, la Costa Smeralda 2.0. Quest'anno nessuno ha ancora fatto il pezzo sulla fine della Costa Smeralda. Quest'anno ci voleva e ne sentiamo la mancanza. Vabbè, allora in attesa del servizio mortuario sulla Costa Smeralda ringraziamo Marianna Aprile. Grazie. Grazie a voi. Mi raccomando Marianna, bevi molta acqua e mangia molta frutta. Sì, molta frutta fresca. Grazie. Mi rivolgo al nostro ospite che viene da Israele. Ma in Israele avete le fontane? Per strada no. Allora quindi non avete i turisti che si buttano nelle fontane d'estate? No, per lo stesso motivo del risparmio dell'acqua. E cosa fanno i turisti in Israele quando hanno caldo? Vanno al mare. Ah, perché abbiamo tanto male. Sì, ma nella zona interna no. No, a Gerusalemme per esempio no, ma fontane ce ne sono semmai pochissime e non funzionano tutto il giorno. Ah, ma magari uno questo citofono e dice posso salire e venire nella sua vasca da bagno? Speriamo di no. Perché no? Non siete un popolo così ospitale? Accogliente, sì. Sì, però fuori dalle nostre case, no, sto scherzando, no, sto scherzando, no. No, il mare è abbastanza fresco e c'è anche tanto, quindi volendo si può andare in qualsiasi momento al mare. Vabbè, quindi vi consolate così. Abbiamo il primo ascoltatore, Sergio. Sì, buongiorno. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Stai bevendo acqua e mangiando frutta? Io ne bevo sempre tantissime e mangio moltissima frutta, quindi non ho di questi problemi. No, io volevo accennare una cosa, cioè secondo me una delle cose, diciamo, che a me personalmente danno più fastidio è questo killer raggio comune. Anche la signora di prima, la giornalista, sì, infatti parlava appunto del fulmine killer, cioè per qualsiasi cosa è un killer, c'è la valanga killer, l'onda killer, il caldo killer, l'influenza killer, e non se ne può più, cioè sì, ma hai ragione, ma lo fanno anche per creare un po', per me, l'onda ansiogena. Tu senti un po', se io ti dico questa notizia, fa molto caldo e stanno arrivando delle zanzare, quindi bevete più acqua. Tu dici, vabbè, lo farò. Ma se te lo dico con questa musica... Fa molto caldo, stanno arrivando nuvole di zanzare, bevete più acqua, dicono gli esperti. Senti che cambia, senti che ti viene sete immediatamente, cominci a picchiarti per cacciare le zanzare e ti senti perseguitato dai killer, non trovi? Sicuramente, ma siccome l'italiano medio, cioè noi italiani medi siamo già ansiosi per natura, no? Cioè basta che ci dicano qualcosa e già ci preoccupiamo anche di più di quello che ci dovremmo preoccupare. Cioè secondo me è un killeraggio quello che fanno i giornalisti nei nostri confronti, ecco. Certo, ma a volte sono anche eufemismi, sai, perché tu dici la montagna killer, la montagna non è un killer, la montagna non è, ecco, difatti, e dovrebbero dire scalatore pirla, ma non possono dirlo, allora dicono montagna killer, non trovi? Difatti, quando ti dicono di non andare in montagna perché c'è il pericolo delle valanghe, poi dopo viene giù una valanga e ti prende sotto, a me dispiace per il poverino che è rimasto sotto, però voglio dire, se te l'hanno detto, tu perché ci sei andato? Quindi non è la valanga che è killer, ma sei tu che sei un po' così, insomma. È vero. Sventatello. Un'altra cosa, sì, che però lì non c'entrano i giornalisti, ma diciamo che è una cosa, ad esempio, che si possono trovare anche su Facebook, Twitter, vi dicendo, che secondo me non se ne può proprio più, almeno anche a sentire quello che mi dicono alcuni amici, cioè basta parlare di Berlusconi, pro o contro che sia, ma basta. Ma quello capita anche d'inverno, quello capita anche d'inverno. Assolutamente sì, non ce la facciamo più. Diciamo, cioè, è un problema annuale durante tutto, sì, il corso dell'anno. Piuttosto... Piuttosto c'è un altro argomento che io so già che sta per arrivare, qualcuno vuole parlarne, ma voglio chiedere a te, Shai. Sì, voi consumate molto gelato in Israele? Sì, sì. Che gusto, principalmente? Sì. Aspetta che chiedo. Non mi ricordo. Come, che chiedo? Dovresti saperlo. No. Che gusto, sì, che gusto, dattero, non so. Ah, no, un limone direi che... Perché che banalità, gusto. Che banalità, Enrico! Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ma hai sentito che banalità? Uno deve andare fino a Tel Aviv per mangiare il gelato al limone. beh, sono quelle notizie che veramente lasciano esterrefatti, lasciano così basiti. Qual è la notizia che tu non sopporti più d'estate? È il consumo dei chili di gelato. Ah, ecco, guarda caso. Per gli italiani, degli italiani anzi, non se ne può più. Ogni estate ricomincia questo tormentone. Ma non solo, l'altro tormentone, sai qual è, Enrico? Che ti dicono, quest'anno vanno di moda i gelati al basilico, sì, alla sì. fontina e alla pasta ai fagioli. Cioè, tu dici, ma tutti gli anni lo stesso servizio. Sì, ma perché? Sì. Perché? Non si sa. Lo so, secondo me per... poi a volte stanno proprio nei titoli di testa, nei titoli di apertura, quindi lo danno per ultimo nei titoli di apertura, però come se fosse una notizia vitale per l'esito, per la buona riuscita del telegiornale. Mi fa molto... Sì, tutte le altre notizie scivolano in fondo, naturalmente. Sì, io capisco che bisogna dare notizie anche positive, non soltanto brutte notizie, che purtroppo sono la maggior parte in un notiziario, in un telegiornale, però uno vuole essere informato, tu dici voglio essere informato su quello che avviene nel mondo, non su quello che avviene in gelateria, anche perché ci stiamo trasformando in coni e coppette per questi signori giornalisti. L'idea proprio delle vicine di casa che poi, ma hai sentito Nina? Ti mangi 7 kg di gelato all'anno, io non lo mangio mai. Cioè. Complimenti per l'accento dialettale che era un po' piemontese e un po' ligure. Grazie Enrico. Buon lavoro. Grazie anche a te. Ciao. Senti, Shai, tu conosci Mina? Sì. La cantante? Sì, sì. Ecco, lei ha dato un buon consiglio tempo fa. È inutile parlare ancora di tutte queste cose. Ormai la nostra situazione non ha la via d'uscita. Cerca un altro argomento. Ecco, io farei un CD con questa canzone, la manderei a tutti i direttori di tutti i TG, perché è inutile puntarsi su uno. Tutti i direttori di tutti i TG d'estate vanno in vacanza, lasciano i vice, non lo so cosa succede, e tutti facciamo un bel servizio sul consumo della frutta e della verdura in estate. Hit Parade. Forse. Numero 10, In the Closet, Michael Jackson. Numero 9, Pippero, Elio e le storie tese. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici, servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pipero. Numero 8, The One, Elton John. Numero 7, Please Don't Go, W. Numero 6, Jump, dei Criss Cross. Numero 5, Il Paese dei Balocchi, Edoardo Bennato. Numero 4, Too Funky, George Michael. Numero 3, This Used to Be My Playground, Madonna. Numero 2, Mare Mare, Luca Carboni. Numero 1, Rhythm is a Dancer, Snap. ...1992, Shai. Tu magari non eri ancora nato, no, c'eri nel 92. Ho scelto il 92 perché è stato l'anno in cui in Italia sono nati i TG di Mediaset, che sono quelli che poi ci hanno regalato tutta questa meraviglia di notizie sul caldo, sulla frutta e sulle notizie importanti. A proposito, c'è una notizia importante adesso. Notizia clamorosa, oggi è il 14 luglio, pare che domani sarà il 15 luglio. Bene, pare che invece sono quelle notizie che sconvolgono, perché dici, con questa musica dici, è vero, domani è il 15 luglio. Non mi sono preparato. Sul 15 luglio, tu non lo sapevi? No, non mi sono preparato per niente che domani è il 15 luglio. Vedi, per questo serve un telegiornale come Studio Aperto. Domani. Abbiamo ancora un ascoltatore? Sì, c'è Alessandro. Salve. Alessandro, ciao, da Grosseto, ciao, buonasera. Ciao. Qual è la notizia che tu non sopporti più? Allora, la notizia che non sopporto più, ma che forse quest'anno non si sentirà, è quella del grande esodo dalle città. Perché non si sentirà? Perché c'è la crisi, fortunatamente siamo tutti più poveri, stiamo a casa e quindi poco mare, questa, poca montagna. Questa è la notizia che sentiamo. È un omaggio anche all'ospite israeliano, naturalmente, la citazione sull'esodo, ma non sopporto di sentire sempre che quando andiamo in vacanza c'è l'esodo, perché noi andiamo sempre per frasi fatte e ormai le città non si spopolano, c'è l'esodo, punto. Pensa che noi al massimo... è al rango di quello biblico, naturalmente. Certo, poi è un altro tipo di servizio, anche quello del commerciante, del luogo di vacanza, che dice no, quest'anno va malissimo, e in realtà va benissimo, quest'anno non c'è turismo, e poi c'è il servizio dopo, aumentano i turismi in Italia, i turisti in Italia. Comunque, vedi, noi, il nostro problema è che facciamo troppe vacanze, ormai fanno vacanze anche 10 volte all'anno, per poi piccoli periodi. Dovremmo prendere esempio dal nostro amico Shai Stibelman. Voi siete stati 40 anni nel deserto, dice faccio le vacanze una volta per tutte e non ci penso più. Esatto. Tu ci sei stato 40 anni nel deserto? Ancora no. Ma conti di andarci? Per 40 anni? Ma no, anche così a fare un piccolo giro. Ma sì, è bello. Il deserto è bello. Il deserto è bello, ma non c'è l'acqua, bello. Come fai? Prendi una bottiglietta di acqua e te la porti. Sì. Vabbè, senti, adesso andiamo a farci un chinotto perché c'è la borsa. No, non c'è la borsa. Non c'è la borsa. Ah no, non c'è la borsa, possiamo ancora parlare un attimo insieme. Senti, ti volevo fare sentire allora uno spot molto interessante. Senti questo spot. Antonio, fa caldo. Antonio, fa caldo. Попробуйте новый Нести, натуральный освежающий чай со вкусом фруктов. Каждый глоток Нести тонизирует и будет желание. Lui ride perché dovete sapere che Shai, oltre che essere israeliano, è il papà russo, quindi ha capito esattamente quello che diceva forse lo speaker. Più o meno. È lo spot di un famoso prodotto, non possiamo dire quale, ma aveva lanciato questa moda del Antofa caldo. Ma non solo in Italia, a quanto pare, perché lo stesso spot, come avete sentito, è stato riprodotto tale quale in Russia con i sottotitoli, e poi lo speaker interveniva e parlava. Questo perché noi, evidentemente nel mondo, abbiamo sempre questa immagine di nazione calda. Ma Israele è più caldo dell'Italia? Sì, decisamente. Decisamente. Quanto? Dipende anche dove, per esempio in Eilat, che è la città più al sud, e fa a volte anche 40 gradi. Ah, ci sono 40 gradi? Ma questo ci sono anche qui anche ombra? No, anche sì, però non all'ombra. Ah, 40 gradi all'ombra? Sì. C'era un bel film, 40 gradi all'ombra del lenzuolo. Qualcuno di voi lo ricorda, l'ha visto? So che siete tutti così esperti cinefili. Era un film un po' scollacciato degli anni 70, per cui non. È meglio non parlarne adesso. Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te, e come l'anno scorso. Rieccoci qui. Shai, ma tu la conosci questa canzone? No. No, vabbè, il tema filosofico di questa canzone è: non dobbiamo cambiare tutti gli anni le stesse cose. Ed è quello che facciamo anche noi, naturalmente, no? Pronto? Pronto. Chi sei? Pronto, David? Pronto? Sì. Eccomi qua. Hai la radio accesa? Hai la radio accesa? No, ah, aspetta, perfetto, perfetto. Ti chiami allora, David? Io non sopporto che ogni anno c'è sempre il record del caldo. Ogni santissima stagione che arriva, caldo record, giornata record, a me sembra sempre uguale di anno in anno, se devo dire la verità. In effetti, però... in effetti è così, cioè in effetti dovremmo già essere bruciati a questo punto, perché comunque se la temperatura aumenta. Ma tu stai un attimo in attesa, Davide, perché voglio farti sentire un pezzo storico, una clip storica. Buonasera, iniziamo con la situazione meteorologica. Sull'Italia permane un campo di alte pressioni livellate. Tempo previsto per domani. Su tutte le regioni, sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti nelle ore centrali della giornata, sulle zone alpine e prealpine del settore nord-orientale. Foschie notturne e nel primo mattino in Valpadana. Temperatura. Queste, David, erano le previsioni del tempo del 5 luglio 1982. A un certo punto, fra l'altro, si sente, forse non so se l'avete sentito perché in radio magari si sentiva bassissimo, un urlo dei tecnici che, mentre la signora parla in maniera così compita, si sente questo urlo gol, perché in quel momento andava in onda Italia-Brasile dei mondiali dell'82 e l'Italia aveva segnato. Che quindi, spettacolo, è bellissimo. Ma ti dirò di più, dopo, con questa voce veramente soporifera, la signora legge alcune temperature: Bolzano 30, Milano 27, ti faccio alcuni a caso, Reggio Calabria 33, questo nell'82. Le temperature di ieri erano Bolzano 32, 2 gradi di più, Roma 34, 2 gradi di più, Reggio Calabria 31, addirittura 2 gradi di meno, quindi vedi che il caldo record è sempre una nostra illusione. Hai ragione tu, hai ragione tu. Ma oltretutto adesso hanno cominciato pioggia record, inondazione record. Ah, io, ecco, quando parlo, inondazione. Io quando parlo con i nonni mi dicono che pioveva tanto una volta, che si inondava anche una volta, e quindi non è che c'è tanta differenza. Mi ricordi Flaubert, perché Flaubert parlava in un suo libro di questo vecchietto che parlava delle inondazioni nella Francia dell'Ottocento e diceva: sì, ma io ricordo che c'erano queste inondazioni. Cioè, come vedi, il luogo comune è sempre con noi, in Francia nell'Ottocento, nell'Italia del XXI secolo. Sopportiamo, Davide, dai, sopportiamo, grazie. Assolutamente, buona giornata. Ciao. Tu non c'eri nell'82? Sono appena nato. Ah, quindi ti sei perso i mondiali dell'82? Sì. Sai quanto mi interessa. Anche a me. Allora, adesso però c'è un altro caso speciale dell'estate. Oggi è la giornata della banalità. E cosa c'è di più banale d'estate? Dell'oroscopo. E anche noi abbiamo il nostro oroscopo. Dovrebbe esserci in linea la nostra astrologa. Non c'è ancora, evidentemente non l'ha previsto che l'avremmo chiamata. Capisci? L'astrologa dovrebbe sapere tutto. Abbiamo un ascoltatore invece. Davide. Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove? Rimini, vero? Da Rimini, qui fa caldissimo, ci stiamo preparando per andare al mare con i bambini, quindi la combattiamo così, ci mettiamo nell'acqua e facciamo andare giù la temperatura corporea. Ma qual è la notizia che invece tu non sopporti più? Purtroppo l'aumento delle tariffe della benzina ogni volta che c'è il grande esodo. Questo però non è una notizia fittizia, diciamo, è la realtà dei fatti. Sì. Ah, poi notizie fittizie che sono quelle che vanno di moda. Si ricorda quando cadevano, ogni giorno cadevano dei pezzi di ghiaccio dal cielo? Sì, esatto, che erano tutti degli aerei che perdevano i pezzi di ghiaccio. Ah, beh, quelle poi sono quelle notizie, sai, il pitbull inferocito, poi ne arrivano altri 25. Sono quelle notizie seriali, come i killer. Sì, come i killer. Ne basta una, poi ogni giorno se ne trova uno. Anche se magari invece di un pitbull era un cocker. Sì, ma fa sempre caso. Senti, Davide, dimmi solo una cosa, di che segno sei? Io Sagittario. Bene, allora adesso stai molto attento perché parleremo dei segni dell'estate, resta lì. Prima però voglio farvi sentire una clip molto interessante relativa all'anno scorso. Adalberti, questo tuo nuovo libro, Eroscopo? Eroscopo. Eroscopo lo dice tutto. Beh, un libro prettamente estivo dove ci sono le previsioni estive tutte su sesso, amore, sentimenti dei 12 segni zodiacali. Questa nella seconda parte del libro. Cioè, dove e quando andare in vacanza per riuscire a acchiappare qualche preda che vi piace o che vi piacerà. Ma neanche un safari, ma come si esprime questa signora? Si tratta di Adalberti, caro Shai, che aveva scritto questo libro sull'eroscopo, che è una crasi tra eros e oroscopo. Lo spiego perché, sai, essendo straniero, io dico, lo spiego a me stesso in primo luogo. Perché d'estate pare che l'unica cosa che interessi leggendo l'oroscopo è: acchiapperò, conquisterò, fornicherò, non lo so. Chiediamolo alla nostra ospite che adesso c'è, Maria, astrologa e cartomante. Buongiorno Maria. Buongiorno a voi. Oh, grazie. Buon pomeriggio. Allora, come si presenta quest'estate 2011? Facciamo allora, delle belle previsioni. È un'estate un po' tiepida, devo dire, anche se magari i miei colleghi penseranno un'estate bollente, io la vedo un po' tiepida rispetto agli anni passati. Più che altro, più che all'amore, quest'anno io starei attenta alle fregature, cioè i bidoni, e per chi si avventura in queste vacanze. Ma scusa, no, bidoni amorosi nel senso che so il bagnino? No, bidoni proprio truffe vacanziere. Ah, truffe vacanziere, molto di... Ma qual è il segno più esposto, la truffa? Diciamo che più ingenuotti sono Toro, Sagittario, poi ci sono anche dei pesciolini che si credono un po' furbetti, invece poi dopo... Beh, i pesci sono sempre quelli che abboccano poi, fra l'altro. Ecco,